Il mondo è digitale, basta solo digitare. Il mondo è micidiale, non ci lascia respirare. Ci inganniamo con chiacchiere buttate al vento. La faccia della realtà è quella che fa più spavento. Alle male lingue non si dà retta, se no i progetti vanno in fumo come una sigaretta. Non sempre si trova quello che si cerca, e anzi a volte chi trova è quello che non cerca. Pagine bianche da riempire accanto a quelle già riempite. Per me di valore come le pepite. Scrivo le ferite, infatti il foglio si taglia. Prendo tutto dentro le cantine dei miei castelli in aria. Clima di tensione, a 100 anni la pensione. Ma tutti sti problemi non suscitano attenzione. Ragazzi ormai incapaci di provare un'emozione. Ci sono troppe incognite nella nostra equazione. Qua ti divertirai, o almeno così sembra. Dimenticherai che ti abbiamo buttato a terra. Ti convinceremo che sto mondo qua è pulito e che niente qua fa schifo, la fiera della falsità. Qua ti divertirai, o almeno così sembra. Dimenticherai che ti abbiamo buttato a terra. Ti convinceremo che sto mondo qua è pulito e che niente qua fa schifo, la fiera della falsità. Scrivo il pianto della gente comune, abituata alle cazzate, ormai ne sono immune. Non vi crediamo più, siete troppo sospetti. Vendete speranze come fossero folletti. L'onestà qua sembra essere scomparsa. La voce che sei in testa a volte è meglio ascoltarla. C'è chi ragione, c'è chi agisce distinto. Chi si butta e chi ha bisogno di essere spinto. Io cerco del pulito in questo mondo lurido, e di sicuro son convinto di non essere l'unico. L'onestà fra dicono sia invincibile, la cerchi in ogni angolo, trovarla è difficile. Trovo troppe porte chiuse nel mio cammino. Brucio tutti questi fogli nel mio cammino. Così chi li vuole come prove non li può trovare. Mi hanno detto verba volant scripta male. Qua ti divertirai, o almeno così sembra. Dimenticherai che ti abbiamo buttato a terra. Ti convinceremo che sto mondo qua è pulito e che niente qua fa schifo, la fiera della falsità. Qua ti divertirai, o almeno così sembra. Dimenticherai che ti abbiamo buttato a terra. Ti convinceremo che sto mondo qua è pulito e che niente qua fa schifo, la fiera della falsità. La fiera della falsità.